Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ascolteremo per inciso anche il primo intervento come presidente della più importante banca centrale al mondo, la Federal Reserve, di una donna, Janet Yellen, che appunto ha preso il posto di Ben Bernanke nella sua prima audizione al congresso americano. Poi parleremo anche della Svizzera, perché insomma l'Unione Europea sta alzando il tiro, diciamo così, con la Svizzera. C'è un motivo, sono furibondi tutti i partner dell'Unione Europea per quello che è successo con il referendum. Faccio notare che molto si dice degli italiani, dei frontalieri cosiddetti, per cui sono gli italiani che vivono vicino alla frontiera e lavorano in Svizzera. Domani avremo anche un'inchiesta a Radio 24, però attenzione, perché in realtà il secondo nucleo, come diciamo, immigrati in Svizzera è rappresentato dai tedeschi e non dagli italiani, e non ci sono solo gli italiani, tant'è che appunto si contano circa 300.000 italiani, subito dopo 280.000 tedeschi e poi 100.000 francesi, a scendere gli altri paesi. Dicevo, alza il tiro l'Unione Europea perché da un lato ha fatto un comunicato molto duro alla presidenza greca, dicendo che sostanzialmente la libera circolazione delle persone è anche la libera circolazione dei capitali, sono due cose che vanno assieme. E poi sempre da questo punto di vista, e sempre per quello che riguarda la Svizzera, nonostante varie dichiarazioni che tendono a calmierare lo scontro in atto, l'Unione Europea ha bloccato il negoziato con la Svizzera sull'elettricità alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare dopo il voto sul referendum. E quindi poi il commissario europeo Ashton, Catherine Ashton, ha detto anche i partiti maggiori svizzeri non si attendevano il risultato del referendum sull'immigrazione. Poi per carità, l'estrema destra in Austria vuole il referendum, ma questo è un caso un po' diverso. Dicevo, è impossibile, il monito del Consiglio Europeo, accettare la divisione tra libera circolazione delle persone e quella dei capitali, che è un po' dire, tu non è che puoi fare entrare i soldi degli europei ma non gli europei, un po', diciamo, un po' comodo. Allora, le due cose, libera circolazione dei capitali, si parla di europei in questo caso, e libera circolazione delle persone, vanno di pari passo. Devo dire la verità, poi per carità possiamo fare tutte le puntate che volete sui flussi migratori di paesi fuori dall'Unione Europea, che vedono l'Unione Europea, paesi e popoli, soprattutto la possibilità di trovare un lavoro, come vadano regolati i flussi migratori, ma in questo caso obiettivamente devo dire che la posizione per cui non puoi avere il mio portafoglio e non avere me, io la trovo assolutamente corretta. E cioè, se la Svizzera decide che è un enclave del continente Europa dove non valgono le regole della libera circolazione che valgono nel resto d'Europa, vorrà dire che da questo punto di vista si assume anche la responsabilità, per cui diventerà una parte a sé stante anche per quello che riguarda il flusso dei capitali. Troppo comodo prendere i depositi spesso illegalmente portati lì dai cittadini europei, come dimostrano le vicende britannica, tedesca, italiana, per non parlare di quella americana. Troppo facile diventare la cassaforte, in maniera, lo dico molto tranquillamente, anche illecita, nel senso che questi capitali vanno in Svizzera molte volte illegalmente, ma non c'è nulla da dire chiaramente quando entrano. E poi storcere il naso dal punto di vista invece del flusso delle persone. Di questo parleremo, perché proprio nell'ultima ora si è acuita la tensione. Parleremo però anche dell'ipotesi bad bank, che circola moltissimo in Italia, soprattutto ne hanno parlato Intesa San Paolo e Unicredit. L'idea che i crediti difficilmente esigibili, quelli che si sono incagliati o che sono diventati sofferenza, che non potranno più essere ripresi come soldi prestati dalle banche, finiscono e confluiscono in una bad bank, in una banca cattiva. Un po' il termine bad company impariamo a conoscerlo con la vicenda l'Italia, quando l'Italia fu divisa nella parte buona e nella parte, diciamo così, cattiva. Adesso si ipotizza molto per quello che riguarda le banche italiane, ma non solo, non so, devo dire che in Spagna non parteciperanno i due big nazionali, Santander e Banco Bilbao Vizcaya, che stanno gestendo in maniera autonoma la ristrutturazione dei crediti dubbi, vuol dire appunto quei crediti che difficilmente verranno ripagati. La Spagna però è stato il primo caso europeo a creare una bad bank nel 2012, pubblico-privata, per le banche nazionali. Lì c'era il tema soprattutto dei mutui erogati a fronte di un mercato immobiliare che in Spagna stava crollando. E ha salvato molte banche dal fallimento, non ha però innescato una ripresa significativa dei finanziamenti all'economia. Cioè, il discorso è: se io poi libero la mia banca dei crediti che non avrò più, posso avere risorse per finanziare le imprese invece sane, quelle che crescono. Così non è avvenuto in Spagna. E tra l'altro in Spagna la soluzione scelta è stata mista pubblico-privato. In Italia, nonostante qualche interpretazione arrivata al Forex di Roma sabato, ieri è stato molto netto il ministro Saccomanni: la bad bank non deve avere aiuti pubblici, cioè non deve esserci una componente di finanziamento, non di finanziamento ma insomma di partecipazione pubblica dentro la bad bank. Se la banca vuole, se la fa in casa, fa confluire lì tutti i crediti difficilmente esigibili o incagliati o le sofferenze, e in modo da poi far pulizia almeno in quella che è la parte buona e la parte cattiva. Ne parleremo nella seconda ora del programma, anche perché oggi il numero uno di Unicredit ha detto: nessuno mi ha mai proposto una bad bank di sistema, e che vuol dire che ci sia un'unica grande banca brutta in cui tutte le banche fanno confluire i crediti difficilmente esigibili, che ormai sono a 160 miliardi di euro. La vedo un po' dura. Poi la battuta su come è arredata, chi ci lavora, se la bad bank ha anche bad employee and employers e quant'altro, la lasciamo alle prossime puntate. La borsa come va? Più 0,75% Milano, più 0,75% anche Parigi, più 1,60% Francoforte, più 0,90% Londra. In Italia in calo oggi soprattutto Saipem, sono usciti i conti, meno 3,44%, molto bene invece il Banco Popolare, più 7,5%, la Popolare Emilia Romagna più 6,70%, la Pop Milano più 4,30%, Ubibanca più 3,30%, Intesa San Paolo guadagna il 2,40%. Per cento. C'è l'ipotesi bad bank, ma c'è anche l'ipotesi, o meglio le indiscrezioni pubblicate oggi da Sole 24 Ore per quello che riguarda la Popolare Emilia Romagna, per un interesse per la Popolare dell'Etruria. Sale ancora Mediaset dopo l'offerta che ha di fatto scippato, strappato a Sky la Champions, più 2,15%, l'esborso è molto alto, c'è chi dice che questo potrebbe accelerare le operazioni di Mediaset con la componente spagnola, ma tant'è, il titolo guadagna e è a 4 euro per azione. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo molti messaggi. Io non ho detto che la Svizzera abbia torto, e nessuno mette in discussione che la Svizzera sia libera e democratica. Ho solo detto che è un po' difficile essere a favore della libera circolazione dei capitali europei, pecunia non olet, e poi invece dire che non possono circolare liberamente gli europei. Questo è obiettivamente difficile da sostenere. Cioè, o stai dentro o stai fuori. Poi c'è qualcuno che dice: non è vero che li prende e glieli portano. Siamo d'accordo, glieli portano i soldi, ma sto dicendo che insomma non è che quando tu hai flussi di centinaia di miliardi di capitali illegalmente porti in Svizzera non batti ciglio. Adesso ci sono tutte le trattative in corso anche con l'Italia per arrivare, diciamo, a una legalizzazione fiscale di questi capitali, e però poi con i lavoratori tedeschi, italiani, francesi, lì ci sono i problemi. Eh no, allora stai fuori e basta, e resti, diciamo, dunque non è nella lista nera la Svizzera, se ricordo è nella lista grigia, non è, e gli accordi dovrebbero farlo uscire anche da quella. Poi c'è chi dice: Barisoni, mi stai annoiando, guardi, a proposito di democrazia, più democratica della radio, cosa c'è? Un ditino, l'indice, il medio, quello che vuole, e cambi. Devo preoccuparmi anche se la sto annoiando. Va bene, andiamo avanti, lasciando stare la Bad Bank. Sì, l'importante è, poi ne parleremo, basta che non sia una fregatura, cioè se è un modo per creare una banca più libera di fare prestiti perché non oberata dalle sofferenze dei prestiti precedentemente effettuati, bene. Se è una fregatura, no. Ecco, se è una mano di bianco, no. Allora, la Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, ha detto tassi bassi fino a che la disoccupazione non sarà sotto il 6,5%. C'è qualcuno a Berlino? La numero uno della Federal Reserve sostiene che i tassi di interesse si muovono non per il pericolo dell'inflazione che non vede nessuno, men che meno in Europa, in America un po' ce n'è, ma il problema è la disoccupazione. Ho capito che a Berlino ce n'è poca disoccupazione, ma a proposito dell'est europeo cerchiamo di esserlo sempre, non solo quando bisogna dichiarare guerra alla Svizzera, ecco. E l'ho detto proprio così, finché la disoccupazione non sarà scesa ben al di sotto del 6,5%, faccio notare che in Europa viaggiamo ben al di sopra del 10-11%, la Federal Reserve non aumenterà i tassi di interesse, quindi terrà, la politica monetaria sarà accomodante, li terrà bassi. Ancora, la Germania alza, veniamo all'Europa, le stime di crescita per il 2014 all'1,8%. Nel 2015 più 2%. In Grecia, bene, l'asta di titoli di Stato a tre mesi, i BOT a tre mesi ellenici hanno pagato il tasso più basso di interesse da oltre 4 anni a questa parte. Ha collocato 1 miliardo e 300 milioni di euro Atene con un tasso del 3,60%. Il rapporto Istat, che si chiama Noi Italia, beh, è un rapporto interessante più sul fronte forse sociologico, altre cose erano già note, però insomma sono il 25% delle famiglie che vivono con un disagio economico, è una su quattro. C'è una situazione di deprivazione per 15 milioni di persone, nel 2011 erano 22%, quindi diciamo il rigore, l'austerità, noi qua la stiamo già vivendo, visto che beccarsi 3 punti percentuali in più di popolazione che vive in situazioni di disagio economico in 2 anni non è male, no, lo dico. Vedo che tutti vogliono sapere di questa Bad Bank. Un attimo di pazienza, ne parliamo nella seconda ora del programma. Libero di migrare solo l'uccello, sono solo gli uccelli, mi scrivi. Sì, poi ci sono quelli che volano più alti, quelli più bassi. Vabbè, stiamo parlando della libertà di muoversi in Europa e non le migrazioni dei volatili, anche se in questo periodo se ne vedono tante, colpa del cambio climatico, mettiamola così. In auto, in Italia, dicevo, rapporto Istat, Noi Italia. L'Italia è un paese strano perché siamo quelli che hanno il maggior numero di macchine per abitante, ci batte solo il Lussemburgo, che effettivamente ne bastano 3 in Lussemburgo per aumentare la media, ma siamo il paese che ha più auto, 62 auto ogni 100 abitanti, tra i top nel mondo e numeri 1 in Europa. Però siamo anche quelli dove il digital divide, quindi la differenza tra chi è connesso e chi non è connesso, soprattutto anche tra l'Italia e gli altri paesi, non solo all'interno dell'Italia, è più alto. Il 55% della popolazione italiana a partire dai 6 anni utilizza internet, solo il 33% lo fa quotidianamente. In Europa invece siamo al 70% di chi ha più di 6 anni che utilizza internet. E siamo anche in svantaggio sulla banda larga, la quota di famiglie che ha una connessione super veloce è del 55% contro una media europea del 73%. Attenzione che quando parliamo di elementi, di fattori competitivi, ci sono le infrastrutture stradali, ma ci sono anche le autostrade telematiche, le autostrade tecnologiche, e su questo i danni che riceve il paese, non solo il singolo ma anche l'impresa quando viaggia a velocità lentissima rispetto ai suoi concorrenti, sono enormi, sono pari e assimilabili ai danni che ha l'impresa, l'imprenditore, il commerciante quando ha dei tempi di percorrenza di carattere autostradale e infrastrutturale più lunghi rispetto al resto d'Europa. La cosa che mi fa impazzire di questo rapporto è che scopriamo che la pressione fiscale in Italia è a livelli svedesi. Allora, noi tutti vorremmo avere la pressione fiscale svedese e vivere in Svezia, ok? Il problema è che abbiamo la pressione fiscale svedese ma non viviamo in Svezia, siamo al 44,1% del PIL. Ma sapete perché ci siamo avvicinati alla Svezia? Perché la Svezia le ha abbassate le tasse nel frattempo. Questo oltre al danno anche la beffa. La Svezia aveva una pressione fiscale al 51,7, è scesa al 44,7. E poi ogni 100 euro di costo del lavoro, il valore aggiunto nel nostro paese è del 126%, siamo il dato peggiore dell'Europa. Pensate che in Romania siamo al 211%. Vicenda Electrolux, un paio di aggiornamenti. I volumi della produzione restano piatti nel 2014, l'ha detto il numero uno Ernesto Ferrario nel corso di un'audizione in Senato, e per questo non facciamo investimenti sulla produttività ma sul prodotto, e perché cresce solo l'Est Europa grazie a prodotti a basso costo. Occorre prolungare la solidarietà fino al 2017, ha continuato il numero uno di Electrolux Italia, chiedendo al governo di rifinanziare la solidarietà in scadenza. Volano gli stracci tra gli azionisti di Rizzoli Corriere della Sera. Non è la prima volta che succede, e non è la prima volta che vediamo un battibecco, un botta e risposta tra Diego Della Valle da un lato e dall'altra anche Gruppo Fiat, ma anche con Barzoli a suo tempo. Però oggi ha risposto in maniera molto secca, diciamo, John Elkann, alle polemiche innescate da Diego Della Valle sulla gestione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, di cui Fiat è il primo azionista. Elkann, dopo aver detto di essere molto soddisfatto perché da quando l'aumento di capitale è venuto il titolo è cresciuto del 25%, la società è gestita bene e i manager hanno compiuto azioni efficaci, ha aggiunto: non posso pensare che Della Valle abbia preoccupazioni su Rizzoli Corriere della Sera, penso che la TOZ lo preoccupi molto di più. La TOZ va male, è giù del 20% da inizio anno, rispetto ai suoi concorrenti Prada, Armani, Louis Vuitton, Moanessi e Kering è un nano e non sta andando bene. Alla faccia della plomb torinese. New Bridge, Maxi Blitz, Italia USA contro il traffico di cocaina. E qui purtroppo spesso ci siamo occupati del valore economico della criminalità organizzata. 26 persone arrestate, anche il boss Francesco Ursino e Giovanni Morabito, nipote del boss Giuseppe. 2000 pagine di informativa della Polizia di Stato. I nostri GR vi hanno già raccontato, praticamente c'erano i sommergibili già carichi di cocaina, pronti a partire per portarla in Italia, in Calabria. Comunque, il commento del PM newyorkese William Nardini al microfono della nostra Monica Ceravolo. Il ponte che esiste tra Stati Uniti e l'Italia non è mai finito. Stiamo cercando sempre di sconfiggere quelli che stanno cercando di instaurare questi rapporti di criminalità che portare al trasporto internazionale di droga, e ogni volta che noi riusciamo ad individuare un gruppo che sta cercando di compiere questi obiettivi illeciti, saremo lì, sempre lì, a contrastare questi sforzi. Oggi ho dei problemi di comunicazione. Io non ho mai detto che vogliamo imporre gli immigrati alla Svizzera. La sua faziosità è stomachevole, gli immigrati li vuole imporre lei. No, nessuno, ho solo detto che come principio di coerenza, se ti chiami fuori da quello che è un principio europeo. È inutile che alcuni scrivano degli extracomunitari, non avete capito una beata niente. Qui c'è un problema di circolazione dei francesi, dei tedeschi, degli italiani in Svizzera, riguarda tutti quelli che non sono svizzeri. Allora iniziamo un po' a riassettarci, perché qua ogni volta che si parla di immigrato c'è sempre bingo. Vabbè. Allora, lei dice la sua fattorità è stomachevole, gli immigrati li vuole imporre lei. No, io non ho detto solo che se la Svizzera dice che non c'è libera circolazione degli europei nel suo paese, è ovvio che l'Europa gli risponda: bene, anche sui capitali rivediamo la norma. Non è che facciamo circolare i nostri capitali in Svizzera, dove arrivano in via non sempre legale, e però poi sono contingentati i flussi di tedeschi, i flussi di francesi, i flussi di italiani in Svizzera, no? Non mi sembra una risposta. Una volta tanto l'Europa ha dimostrato che esiste, le chiediamo sempre di battere un colpo. Vabbè, parlavamo di criminalità, qui non siamo di fronte alla criminalità organizzata, ma a reati, sì, secondo il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, che ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini a 14 persone, tra cui l'ex assessore della Giunta Moratti, Mariolina Moioli. Questo è il filone tangenti alla Compagnia delle Opere, quindi CL. Dicevo, accusati a vario titolo di corruzione, truffa aggravata, finanziamento illecito ai partiti, peculato e falso. L'inchiesta riguarda la gestione e l'erogazione illecita di una serie di finanziamenti del Fondo Tutela dell'Infanzia ad associazioni legate appunto alla Compagnia delle Opere. Perché questo? Perché i soldi per l'infanzia, o meglio i soldi del Fondo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbero stati utilizzati dall'ex assessore alla famiglia del Comune di Milano, Mariolina Moioli, per coprire spese per la sua campagna elettorale. Oltre 30.000 euro sarebbero stati utilizzati per pagare spot radiofonici a chiara finalità elettorale sull'emittente radio 105 e quasi 100.000 per una grande festa. Lo scrive la Procura di Milano. Ora, io spero che la Procura si sbagli, anche se dobbiamo ritenere che abbia ragione, perché sarebbe veramente brutto che questi 130.000 euro, oltre che non essere suoi, cara ex assessore Mariolina Moioli, lei li ha prelevati dal fondo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con tutti i casini e i problemi che ci sono a Milano come in altre città per le famiglie meno abbienti. Abbiamo appena letto il dato su una famiglia su quattro, cioè, ma veramente, no? Ma fateli prestare, fai crowdfunding, visto che vuoi essere eletta avrai tanto appoggio, no? La Procura di Torino, qui ci spostiamo in Piemonte, indaga su un insieme di finte riunioni per incassare rimborsi. Però facciamo una cosa, adesso ho il metodo e la pubblicità, ve la racconto questa dopo, se no sforiamo ogni tempo massimo. Poi parliamo della Svizzera, sentiamo la Yellen che cosa vuole fare con la politica monetaria americana e cerchiamo di capire questa bad bank quanto bad dovrà essere. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbassare la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Un grande ritorno, quando ci vuole, era cos'era, un anno che non sentivamo Rino Gaetano, vabbè. Perché intanto noto che l'ex assessore alla famiglia del Comune di Milano, Giunta Moratti, è ancora consigliere nel Comune di Milano. Io spero che lei ci chiami, abbiamo cercato, faccia quello che vuole, ci dica che ha torto la procura, per favore, che lei non ha sottratto 130.000 euro che erano destinati all'infanzia e all'adolescenza per farsi la campagna elettorale, perché veramente, cioè, la condanna morale si commenta da sola. Ci dica che non è così, che si è sbagliata la procura, cara Mariolina Moioli, se no le manderei davanti al Consiglio di Palazzo Marino in maniera assolutamente pacifica, tutti gli adolescenti e i genitori soprattutto che avrebbero avuto piacere nel ricevere i 130.000 euro che lei ha sottratto. Lei, ma moglie, l'ha mai portata la carta igienica all'asilo se ha un figlio o a scuola? No, chiedo, cosa bene. Va bene, andiamo, dicevo, a Torino, perché a Torino c'è una cosa bellissima, e questo è un paese che ha una fantasia, ragazzi. Allora, si tratta della circoscrizione, quindi a un livello ancora più basso del comune. Esistevano, la circoscrizione è la quinta, negli anni in cui presente era Paola Bragantini, c'erano diversi tipi di sedute. Siccome ogni seduta dà diritto a un gettone da 60 euro di presenza, c'era la seduta normale, la seduta, c'era la giunta seduta o la giunta in piedi. La giunta seduta vuol dire che si riuniva veramente, la giunta in piedi facevano finta, erano delle giunte fantasma, così permettevano ai partecipanti di assentarsi dal lavoro con un permesso retribuito, perché uno va, lascia il lavoro con un permesso retribuito, prendi 60 euro, va a fare i cavoli suoi. Però c'era un codice in questa giunta in piedi, perché esisteva un verbale di quelle riunioni sottoscritto da un funzionario compiacente e un relativo ordine del giorno, ma era tutto inventato. E indaga la Guardia di Finanza per quello che riguarda le assemblee del 2011-2012. La cosa che mi fa impazzire è che lo sappiamo che c'è questa abitudine in alcuni consigli comunali, ma non solo, di arrivare, firmare e andarsene. Però avevano dato anche dei nomi. C'è la versione Speedy, che uno potrebbe chiamare anche sveltina, nel senso che la giunta viene convocata, sciolta dopo pochi minuti, però hai già maturato il gettone, perché sei dovuto andare lì a Speedy. Famolo Speedy. E poi c'è la giunta paranormale, e qui veramente andiamo verso serie televisive, perché c'è la giunta paranormale, cioè ci sono giunte in cui, penso con un pendolo, con un cerchio magico, le persone che non sono presenti riescono a firmare ugualmente. Ma in Piemonte è vero che Torino è la città della magia, perché c'erano gli assessori della giunta Cota, lo stesso Cota, che firmavano scontrini a Roma e dopo sei minuti in autostrada sulla Torino-Milano, e lì abbiamo brevettato per la prima volta al mondo, diciamo, com'è che l'avevamo chiamato, il teletrasporto, perché dopo il tunnel del Gran Sasso questo paese ha anche il teletrasporto. Ma qui siamo anche veramente alle sedute spiritiche. Comunque, andiamo invece in Sicilia, falsificazioni documentali, messa in scena di spettacoli fantasma, false attestazioni, costi dichiarati ma mai effettivamente sostenuti, contributi previdenziali non versati, utilizzazione di fatture false, vi basta? Sono alcune delle irregolarità riscontrate in due anni di indagini dalla Guardia di Finanza di Palermo, 72 persone denunciate per truffa aggravata e falso. Nei loro confronti la Procura ha già emesso avvisi di conclusione di indagine, vittime della truffa, tutti noi. Comunque, le 2.300.000 euro di attività teatrali del 2008, la vittima della Regione Sicilia, mai realizzatesi. C'era tutto un insieme di finte rassegne, finti festival, ma con la fatica che fai? Lo fai prima a farlo che a organizzare la messa in scena. Comunque, dunque, un ente teatrale era stato escluso dal contributo per aver predisposto una stagione di modesto livello artistico. Cosa ha fatto? Ha subito prodotto una falsa documentazione attestante la venuta rappresentazione di uno spettacolo a cui avrebbe partecipato un noto artista di fama nazionale, che non è mai stato realizzato. Vabbè. Uno dice, con questi messaggi tutti in Svizzera, ma il problema non è andare tutti in Svizzera o non andarci, il problema è quello che ha deciso la Svizzera, ma soprattutto la reazione molto molto piccata, oserei dire, ma al limite del contrasto diplomatico, dello scontro diplomatico dell'Unione Europea, che già ieri aveva fatto capire di non apprezzare il referendum svizzero, oggi ha decisamente alzato il tiro. Il 50,5% degli svizzeri ha detto di sì all'introduzione di quote contro l'immigrazione di massa del paese. Come tutti i voti democratici va rispettato, ma ci mancherebbe se ci mettiamo contro un referendum. 50,5. Dalle urne è uscito un paese spaccato in due, i cantoni romani e francofoni più filoeuropei, le grandi città che hanno perso, cioè aveva vinto il no, i cantoni di lingua tedesca e il Ticino hanno votato a favore dell'iniziativa. Tra l'altro il Canton Ticino è quello dove la percentuale di sì al tetto, diciamo, all'immigrazione è stata la più alta, il 68,2%. Il successo dell'iniziativa introduce un nuovo articolo nella Costituzione svizzera e le nuove disposizioni prevedono di limitare i permessi di dimora per stranieri attraverso tetti massimi e contingenti annuali definibili in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera. E al momento di assumere lavoratori le imprese devono inoltre dare la preferenza agli svizzeri. Di fatto, allora, anche l'Australia per esempio ha una politica di immigrazione molto selettiva, ma non fa parte, anzi quasi razzista in alcuni casi, ma non fa parte del continente europeo, non è un dettaglio, perché la Svizzera tende ad essere in Europa. Perché lo dico? Perché questo voto di fatto va a ricusare l'accordo tra l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica del 1999, accordo che si chiama libera circolazione dei lavoratori ed è che è legato a altri 6 accordi generali e bilaterali su trasporto aereo, merci e passeggeri, ricerca, commercio agricolo, requisiti di conformità e appalti pubblici. C'è la cosiddetta clausola ghigliottina, sta ghigliottina che continua ad essere rievocata qua. Perché? Perché se salta uno solo di questi 6 accordi, saltano anche gli altri. Bella Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Ti sentiamo un po' basso, alziamo per favore il volume di Beda. Allora, qui c'è un tema che questo referendum, che non è ancora legge, però va contro l'accordo dell'Unione Europea e farebbe saltare con la clausola di ghigliottina gli altri 6 accordi. Ma oggi l'Unione Europea, diceva, ha alzato il tiro perché ha detto: attenzione, è impossibile accettare la divisione tra libera circolazione delle persone e quella dei capitali. È vero che sono i tedeschi a essere particolarmente irritati? È probabile che ci siano molti paesi che sono irritati da questa vicenda, perché non è evidentemente soltanto una vicenda che è legata all'immigrazione, lo abbiamo spiegato in varie circostanze. C'è un trattato che con la Svizzera che prevede la libera circolazione dei lavoratori e ve ne sono altri 6 che hanno a che fare con quello della libera circolazione, che sono legati da un punto di vista di diritto internazionale a questo aspetto e che riguardano in realtà l'agricoltura, il commercio, molti ambiti anche strettamente economici. Quindi è evidente che i paesi europei, in particolare quelli che hanno rapporti commerciali stretti con la Svizzera, e naturalmente la Germania è uno di questi, sono particolarmente irritati e preoccupati da quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Allora, tra l'altro dice capitali e persone inseparabili, no, perché guardavo la lista dei cittadini europei che vivono in Svizzera, lavorano in Svizzera, ci sono 300.000 italiani ma 280.000 tedeschi e 100.000 francesi, cioè non sono solo gli italiani nella macchietta, diciamo, del cameriere o del basso profilo lavorativo. Tra l'altro l'Unione Europea ha già bloccato il negoziato sull'elettricità. Sì, allora, primo aspetto, sì, assolutamente, non ci sono soltanto gli italiani che vivono in Svizzera, lì bisogna fare una differenza tra gli europei che sono residenti in Svizzera e gli europei che sono che lavorano sulla frontiera, che vanno avanti e indietro. Gli europei residenti in Svizzera sono circa 400.000 e abbiamo assistito negli ultimi anni a un forte aumento dei tedeschi, in particolare nel cantone di Zurigo, sono tutte persone estremamente preparate, istruite, spesso lavorano nel settore finanziario, nelle banche, nelle assicurazioni e naturalmente posso immaginare che il governo federale sia preoccupato per lo status futuro di queste persone, perché sono parecchie, non ho le cifre a portata di mano, ma sono certamente nell'ordine di decine di migliaia di cittadini tedeschi in quella zona della Germania. Primo aspetto. Secondo aspetto, il trattato attualmente in discussione sul commercio dell'elettricità. Allora, da tempo la Svizzera e l'Unione Europea stanno trattando un accordo in questo campo che dovrebbe migliorare il passaggio dell'elettricità oltre frontiera. È stato bloccato un negoziato tecnico, non è un negoziato politico, è un negoziato tecnico. Evidentemente l'Europa è in una situazione in cui sta cercando di avere nei confronti della Svizzera una posizione la più equilibrata possibile. Da un lato ufficialmente e probabilmente giustamente dice la palla è nel campo della Svizzera, è la Svizzera che deve denunciare l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Non ha senso che l'Europa prenda posizione in questo momento sulla base di un referendum che si è svolto in un altro paese. L'Europa a questo punto conviene aspettare e vedere come reagisce la Svizzera. Naturalmente deve anche un po' mettere sotto pressione la Svizzera, non può rimanere in balia delle decisioni della Svizzera, e quindi ha colto questo negoziato molto tecnico sull'import-export di elettricità per lanciare un messaggio e per dire agli svizzeri: guardate, siamo perfettamente consapevoli del vostro referendum, possiamo perfettamente capire che dobbiate parlarne al vostro interno per cercare di capire come trattare con l'Unione Europea, però siamo infastiditi da questo esito elettorale e dalle potenziali ricadute che questo esito elettorale potrebbe avere sui nostri cittadini. Allora, nel ringraziarti, Beda Romano, hai fatto molto bene a ricordare due cose, perché vedo che c'è chi confonde, ma è proprio un cortocircuito mentale, il referendum svizzero con l'idea delle quote di extracomunitarie. Allora, l'Australia, avete ragione, la conosciamo bene, ha addirittura le quote per professioni, cioè l'Australia ogni anno esce e dice: ho bisogno di 1000 infermieri, 500 idraulici e quant'altro, che è una cosa. Ma il problema è che, come ci spiegava molto bene Beda Romano, perché sono così irritati i tedeschi e anche i francesi, questo vale per qualunque cittadino, cioè non è una quota. E non è che la Svizzera abbia deciso di dire: quest'anno io ho bisogno di meno operai e più geometri, meno infermieri e più medici. Si riguarda la libera circolazione delle persone, per cui anche quello, parliamoci chiaramente, che lavora in banca in Svizzera ed è tedesco, o quello che viene a fare attività commerciale in Svizzera, è incluso in queste fasce. Non è semplicemente un salvaguardare il lavoro, i flussi migratori, come può pensare qualcuno, non c'entra nulla. Ecco perché c'è un'irritazione non tanto italiana, ma anche e soprattutto franco-tedesca. Grazie Beda Romano, in collegamento con noi da Bruxelles. Ci hai fatto anche capire che l'Europa sta iniziando a dire, con un atteggiamento quasi da guerriglia, inizia a bloccarti una trattativa in corso sull'elettricità per farti capire quello che potrebbe essere poi lo scenario, l'escalation futura. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ognuno a casa sua può fare come vuole. Certo, ma mica abbiamo detto che il referendum svizzero fosse illegittimo, né sbagliato. Non ci siamo permessi di dare un commento sull'esito del referendum. Dico semplicemente a tutte le anime belle di non sorprendersi se poi l'Europa si urta e si irrigidisce. Perché è chiaro anche agli svizzeri che se c'è la libera circolazione dei capitali ci deve essere la libera circolazione delle persone, se no niente libera circolazione dei capitali, niente libera circolazione delle persone. Va bene? Torneranno gli spalloni, che devo dire? Livia Zancaner, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, più 1% Milano come Parigi, più 2% Francoforte, più 1,23 Londra, più 0,90 il Dow Jones. Oggi su Sole 24 ore notizia che riguardava la popolare Emilia Romagna. E il titolo guadagna il 7,12%, è il secondo miglior titolo dopo il Banco Popolare più 7,70. Prego. Sì, allora oggi appunto il Sole 24 Ore riportava che nel CDA di oggi sarebbe stato possibile un inizio delle discussioni sull'acquisizione della Popolare, dell'Etruria e del Lazio, che ha reagito bene alla notizia e ha guadagnato in borsa oltre il 2%. Vi è stata inoltre un'altra notizia oggi, nel senso che l'amministratore delegato della Popolare dell'Emilia Romagna, Luigi Odorici, ha confermato che l'istituto non ha bisogno di procedere con alcun aumento di capitale per superare i nuovi stress test sulle banche. Ricordiamo anche che il settore delle banche popolari era stato oggetto di vendite nei giorni scorsi e probabilmente quindi oggi e negli ultimi giorni si è trattato anche di qualche recupero, di qualche ricopertura da parte degli investitori che avevano puntato sui ribassi dei titoli. Bene, appunto anche la Pop Milano più 4,14, UbiBanca più 3,5, ma qui c'entra anche la Bad Bank, perché poi ne parleremo con Rainer Masera, con altri. Intesa San Paolo più 2,80%. Sì, certo, ricordiamo che è un tema che ha tenuto banco nei giorni scorsi, ha contribuito anche ad aumentare gli acquisti sul settore bancario a Milano. Oggi ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni. Ce l'abbiamo Ghizzoni? chiedo in regia perché era stato coperto. Ecco, allora, siccome c'era la nostra Deborah Rosciani, immagino che tu ti riferissi alla vita di Enrico Letta, al nuovo grattacielo di Unicredit qui a Milano, dove ci sono state dichiarazioni anche di Ghizzoni. Farei ascoltare Ghizzoni e poi lo commentiamo assieme, Livia. Le posso chiedere un commento appunto su questa visita di Letta, su questa raccomandazione che hai espresso al sistema bancario, continuate a concedere credito e soprattutto aiutateci anche per combattere la disoccupazione giovanile. Beh, prima di tutto un grazie al Primo Ministro perché ci ha fatto veramente molto piacere averlo con noi. Come ho detto anch'io nel mio brevissime due parole sul credito, in Italia quest'anno 2014 erogheremo di più rispetto al 2013 e confermo che è un obiettivo, è un target che abbiamo dato alle nostre filiali, quindi non è che vogliamo, a questo punto dobbiamo fare più credito rispetto al 2013. Non è una situazione facile perché sembra un paradosso, ma far credito oggi bene non è così semplice, bisogna essere anche un pochino selettivi, però gli obiettivi sono quelli. In privato, dopo il taglio del nastro o prima, la questione della banca di sistema è stata affrontata con il Premier? No, non ne abbiamo parlato, oggi no. Oggi? Quindi ne avete parlato in altro momento? Assolutamente. Ne parlerete? Ma non credo, io personalmente non ce l'ho in agenda, quindi personalmente l'ho già detto sabato scorso, credo che sia una soluzione forse più utile per banche di differenti dimensioni rispetto alle grandi banche che possono gestirla da soli. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Abbiamo sentito quindi Ghizzoni al microfono della nostra Deborah Rosciani, numero uno di Unicredit, sull'ipotesi della Bad Bank. Livia Zancaner, dicevamo anche su questo si sono mosse un po' i titoli bancari. Intesa San Paolo più 2,80%, Mediaset invece più 2,40 a 4 euro per azione. Sì, allora Mediaset, ricordiamo, ha ottenuto l'esclusiva per le partite della Champions League per il 2015-2018, secondo le discrezioni il prezzo sarebbe intorno a 700 milioni di euro, circa 230 milioni ma stagione, un prezzo che comunque gli analisti hanno giudicato superiore alle loro stime. Questo per quello che riguarda Mediaset. Finmeccanica oggi bene più 2,60, ieri il numero uno Pansa aveva ribadito la necessità di vendere Ansaldo Breda, ha detto che era, diciamo, metteva a rischio l'intero gruppo. Il titolo, cioè gli investitori ci credono a questo punto? Sì, diciamo che è un tema di cui si parla ormai da mesi, quello della vendita di Ansaldo Breda. Il titolo ha guadagnato il 2,58%, sì, c'è sempre questa volontà, bisognerà vedere se troveranno un partner o comunque un investitore disposto a comprare la società, che appunto, come ha detto Panza, rischia di compromettere la performance del gruppo Finmeccanica. Ultimo titolo che vorrei commentare, devo dire forse non ho citato Unicredit oggi, più 1,94%, Mediobanca più 1,90%, anch'essa, Tenaris più 2,5%, bene anche Ferragamo più 1,30%, come Gtech ed Eni, Monte dei Paschi più 0,90%. Tra i titoli in negativo, Generali perde lo 0,40% come Atlantia, lo 0,60% lo perde Ansaldo STS, lo 0,90% Buzzi Unicem, ma soprattutto Saipem, meno 3,44%. Sì, Saipem ha virato in negativo dopo conti. La pubblicazione, sì, dei conti che sono risultati ben al di sotto delle attese degli analisti. Infatti il gruppo ha chiuso il 2013, ricordiamo che sono conti preliminari, con ricavi a 12 miliardi di euro circa, in calo del 10% rispetto all'anno precedente, e una perdita di 404 milioni di euro che si confronta con un utile di 904 milioni nel 2012. Sotto le attese sono stati anche i conti relativi al quarto trimestre del 2013 e anche alcuni numeri relativi alla guidance per i prossimi anni. E allora, migliori e peggiori in assoluto, Valori Italia XA più 80%, però 0,009 la quotazione, Best Union Company più 26%, Screen Service Broadcasting più 19%, PMS più 15%, e di nuovo Bastoggi più 8,70%, molto forte anche il Credito Bergamasco più 8%. Fronte opposto invece L'Oreal meno 3,60, Meteorios Capital meno 3,50 e appunto Saipem. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corri sulle 24 ore. Adesso parliamo della Bad Bank, che vedo molti che scherzano, mettiamo la Bad Bank in Svizzera così uniamo il tema di apertura. No, in realtà il tema è serissimo e dovrebbe anche, secondo alcuni, potrebbe anche permettere alle banche di liberarsi di un fardello ed essere più pronte a prestare soldi alle imprese, nuovi soldi alle imprese, trasferendo su una banca cattiva, o cattiva a me non piace, diciamo più brutta che cattiva, però sarebbe Ugly Bank, comunque tutte le sofferenze, i crediti che non si riescono più a riavere. Però prima vorrei dedicare 20 secondi a uno scambio di cortesie che continua a produrre elementi tra John Elkann, quindi uno della Fiat, e Diego Della Valle. Questa mattina Elkann, dopo aver detto di essere molto soddisfatto perché da quando della gestione di Rizzoli Corriere della Sera, perché da quando l'aumento di capitale è avvenuto il titolo è cresciuto del 25%, e i manager hanno operato azioni molto efficaci, la società è gestita bene, ha detto Elkann. Ha aggiunto: non posso pensare che Della Valle abbia preoccupazioni su Rizzoli Corriere della Sera, penso che la TOZ lo preoccupi molto di più. La TOZ va male, è giù del 20% da inizio anno rispetto ai suoi concorrenti Prada, Armani, Louis Vuitton, Moët Hennessy e Kering, è un nano e non sta andando bene. Questa è la rispostina di Elkann Della Valle dopo che Della Valle aveva criticato la gestione del Rizzoli Corriere della Sera, di cui Fiat è il primo azionista. Poco fa la risposta è Della Valle. Diego Della Valle invita John Elkann, presidente della Fiat, a vedere la TOZ. Potrebbe anche rimanere per uno stage, visto che ha molto tempo libero, così potrà imparare cosa vuol dire lavorare per davvero. E poi una chiosa delicata, con un paese che vive una situazione drammatica, invece di essere pronta a dare il massimo appoggio, la Fiat è scappata nella penombra, la famiglia Agnelli è scappata nella penombra per sistemare al meglio i propri affari personali. Chi si comporta in questo modo non merita nessun rispetto. Vabbè, ma scriversi, twittare, un'email, un sms, no, Vabbè, allora, io adesso vorrei, prima, per introdurre il tema della Bad Bank, mettere accanto quello che è stata la prima dichiarazione ufficiale della neo presidente della Federal Reserve, e mi riferisco a Janet Yellen, che, contrariamente a quanto pensano i tedeschi, ritiene che il primo problema anche di una banca centrale e anche della politica monetaria sia la disoccupazione e non questa fantomatica inflazione che non vede nessuno, se non pensando a Weimar. E quanto dichiarato il Premier Letta, appunto inaugurando a Milano le nuove UniCredit Towers. Yellen e Letta, spero che il volo non sia troppo pindarico. The economic recovery gained greater traction in the second half of last year. L'economia americana ha guadagnato maggiore trazione nella seconda metà dell'anno scorso e questo ha innescato ulteriori progressi del mercato del lavoro, con 1,25 milioni di posti di lavoro creati da luglio e 3,25 milioni da agosto 2012. Nonostante questo, la ripresa del mercato del lavoro è tutt'altro che completa e il tasso di disoccupazione è ben al di sopra dei livelli che il FOMC considera in linea con la massima occupazione. Se le informazioni che riceveremo confermeranno le attese di un miglioramento in corso del mercato del lavoro e di un'inflazione che si muove verso l'obiettivo di lungo termine, la Federal Reserve probabilmente ridurrà la velocità degli acquisti in ulteriori passi moderati nelle prossime riunioni. È l'Europa il nostro futuro. Noi possiamo discutere se l'Europa va bene, se l'Europa va male, ma io non ho nessun dubbio che l'Europa è il nostro futuro. Senza l'Europa non abbiamo futuro. Possiamo discutere di quale Europa e possiamo cercare di rendere l'Europa più attenta a quelle esigenze di crescita, più attenta alle persone, più attenta agli investimenti, meno legata a quell'idea di Europa della sola austerità che nei 5 anni che abbiamo dietro le spalle ha caratterizzato il tempo che abbiamo vissuto. Ma questa Europa della sola austerità ai cittadini europei è sembrata fredda ed è sembrata lontana. e non può continuare così. Ecco perché quando citi oggi Europa, oggi noi dobbiamo tutti sapere che tutti, ognuno nella sua diversa funzione, dobbiamo combattere per un'Europa differente, perché questa Europa non piace più così com'è. Anche di più, Premier Letta, più attenta, finalmente attenta. Se n'è sempre fregata questa gestione dell'Europa, dell'austerità e della disoccupazione, quindi un'Europa meno tedesca. Aumentiamo il coraggio, tanto che c'ha da perdere, Premier, no? O la va o la spacca. Allora, vediamo se l'ipotesi di Bad Bank potrà aiutare le banche italiane ad aumentare i prestiti alle piccole e medie imprese, soprattutto alle piccole e medie e non a chi frequenta certi salotti. Moria Longo del Sole 24 Ore se ne occupò già nel primo caso che conosciamo in Europa, la Spagna utilizzò un sistema misto pubblico-privato. Buonasera Moria, innanzitutto del Sole 24 Ore, e grazie anche all'economista nonché banchiere di lungo corso Rainer Masera. Buonasera. Buonasera. Allora, prima di tutto Moria, qual è l'ipotesi sul tappeto? Perché prima ho detto che a me la Bad Bank basta che non ricordi la polvere sotto il tappeto, ma vediamo cosa c'è sopra il tappeto intanto. No, la Bad Bank le ipotesi sono ancora molto vaghe, per cui è inutile andare a dare dettagli perché non si conoscono. La logica della Bad Bank è un posto, fare un salvadanaio dove mettere crediti deteriorati, cioè quei crediti che le banche hanno erogato e le famiglie e le imprese non stanno più restituendo. Nella quale poi quindi vengono segregati dal bilancio delle banche. Questo libererebbe capitale, perché ricordo che i crediti in sofferenza occupano capitale. Do solo un numero, un calcolo che ha fatto Accenture: ogni 100 milioni di euro di crediti deteriorati tolti dal bilancio da una banca libera una quantità di capitale sufficiente per erogare 150 milioni di euro di crediti nuovi. Quindi 100 milioni in meno di deteriorati diventano potenzialmente 150. Ma questo anche per via di Basilea 2, Basilea 3, sì, esattamente, la vendetta, perché si libera capitale per erogare. Perché Basilea prevede che se tu hai 100 milioni di euro di crediti che non riavrai, devi andare a ricoprirli come capitale, come riserve. Assorbono, esattamente. Per cui il rapporto è 100 milioni di cui ti liberi di crediti che non potrai più riottenere perché la società è fallita, perché non li ha, per altri motivi, libererebbero prestiti o crediti. Questa possibili è una stima a spanne, sì, però voglio vedere, però, Accenture, okay. Però diciamo come linee di grandezza potrebbe essere una cosa del genere. Quindi vendere questi crediti in sofferenza deteriorati è fondamentale. Poi si possono vendere o a investitori specializzati o a una bad bank. Il problema qual è, vero? Che per venderli bisogna vendere al prezzo giusto. Chi li compra, che sia la bad bank o comunque un investitore specializzato, li compra perché li compra ovviamente a molto a sconto, sperando poi di andare a recuperare più di quello che ha pagato. Il problema è proprio questo, che le banche, soprattutto le medio-piccole, ancora non li hanno svalutati a sufficienza nel bilancio. Il tasso di svalutazione dei crediti deteriorati, quindi le perdite che le banche hanno già intascato nei bilanci a fronte dei crediti deteriorati, ebbene il tasso di svalutazione è oggi molto inferiore rispetto a quello che era mediamente nel 2007. Mediamente, secondo i dati Mediobanca, nel 2007 le banche svalutavano, avevano un tasso di copertura dei crediti in sofferenza del 50,7%, a fine 2012 era del 39%. Ora è un po' risalito per la grande pressione che sta facendo Banca d'Italia, ma non abbastanza. E soprattutto è salito per le banche più grandi, ma non per le banche più piccole. Ricordo per esempio Banco Popolare ha un tasso di copertura del 36%, Carige del 30%, UbiBanca del 25%, mentre Intesa del 44%, che è molto più alto, ma è ancora più basso rispetto al 54% che Intesa aveva nel 2007. Questo cosa vuol dire? Che le banche hanno ancora potenziali perdite nei loro bilanci, non riescono a svalutarli. Standard & Poor's calcola che ancora ci sono da qui a fine 2014 altri 42 miliardi di perdite potenziali derivanti da questi crediti deteriorati. Allora, se le banche non riescono a svalutarli, non riescono neanche a venderli a qualcuno, perché nessuno glieli compra a prezzi sopravvalutati. Questo è il vero problema. Quindi il problema della bad bank gira secondo me intorno a un unico punto: chi si prende il cerino, chi perde? Può farlo lo Stato, che però ha detto di no, possono farlo le banche, ma non hanno, le risorse sono limitate. Bisogna trovare la quadra del cerchio per cercare di smobilizzare questi crediti, quindi permettere alle banche di erogarne di nuovi, però qualcuno le perdite da qualche parte se le deve assumere. Ecco, dopo il traffico vorrei sentire su questo Rainer Masera. È chiaro il ragionamento e l'analisi che ha fatto Mario Longo. Io, funziona già nel mondo del credito che tu possa girare a un prezzo più basso. Cosa succede se io devo, se ho prestato 100 milioni o 100 milioni di prestiti che difficilmente rivedrò, posso girarli a una terza persona che me li paga, poniamo 90 milioni, lui poi, se sto, sono ottimista, ma magari me ne paga anche 70 milioni, dopodiché lui spera di riuscire a riprendersi almeno, poniamo, 75 milioni di questi crediti, e quindi c'è una trattativa in corso. Quello che dice Moria, però, per fare questa operazione occorre maggiore trasparenza, perché tu devi dire esattamente quanti sono i crediti che tu ritieni difficilmente, che ti vengono difficilmente ripagati, e quindi devi metterli a bilancio, che vorrebbe dire poi aumentare le svalutazioni nel bilancio della banca. Allora, professor Rainer Masera, domanda molto semplice: dov'è la potenziale fregatura nella bad bank e dov'è invece il potenziale vantaggio? Ma io non concordo con l'analisi così pessimista che è stata fatta, e non penso che si debba parlare di fregatura al riguardo. Il punto, a mio avviso, è un altro. Occorre trovare un modo per valorizzare quelle che sono gli asset sottostanti i bad loan. Senz'altro la problematica è estremamente diversificata, quindi i crediti deteriorati, i bad loan ci sono, ma già parlare di bad bank secondo me è inappropriato. Noi abbiamo fondamentalmente tre dimensioni, un problema tridimensionale. Cioè tipologia e dimensioni delle banche, le due banche sistemiche, le banche grandi, le piccole e le medie. Poi abbiamo la tipologia dei crediti deteriorati, e non si può fare di tutta erba un fascio, ci sono sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti. Fra l'altro sui ristrutturati noi abbiamo una posizione mediamente migliore di quella di altri paesi che sostanzialmente neanche li registrano se sono ristrutturati e hanno una garanzia al riguardo. E poi abbiamo il settore economico di riferimento, le piccole e medie imprese, le medie e grandi imprese, perché ci sono anche queste purtroppo, il real estate e le infrastrutture. Quindi la mia diagnosi è che occorre affrontare il problema dei bad loans, cioè dei crediti deteriorati, che sono tutti quelli sopraindicati, con tipologie e con forme diverse. Occorre anche avere una visione che sì sistemica, cioè una visione che abbia dei tratti comuni, che sia sotto certi versi strutturata e che passi per una sorta di cabina di regia pubblica, ma non un'unica soluzione per delle tipologie così, così diverse. Quindi ritengo che il fondo spagnolo sopra considerato non sia il modello a cui e quello era pubblico privato. Mi dica un'ultima cosa, Masera, perché abbiamo ancora un paio di minuti, ma scrivono gli ascoltatori, magari in maniera ingenua, ma non esistono già le società di recupero crediti? Cioè non basterebbe girare crediti a lei ha ragione nel dire che è diverso, ci sono crediti che sono incagliati, crediti che sono inesigibili, crediti che sono sofferenze, non è che tutte le difficoltà siano uguali, ma non basterebbe rivolgersi a terzi? Ma certo, bisogna rivolgersi a terzi, è questo che sto dicendo, però nell'ambito di una regia che sia una regia comune. Questi terzi chi possono essere? Possono essere o degli operatori italiani, e ce ne sono di specializzati, oppure dei grandi operatori internazionali. Mi sembra di capire che le due banche sistemiche italiane stanno considerando per una determinata tipologia di crediti deteriorati una soluzione con un grande investitore istituzionale americano e internazionale. Quindi, se ho ben capito, sul punto di vista lei dice occorre una cornice, una cabina di regia simile per tutti, però poi è molto diversa la posizione delle banche banche di sistema, Intesa San Paolo e Unicredit, le banche medie, altre banche, banche Monte dei Paschi, Banco Popolare, così, e poi quelle... È passato molto, molto sì. bene. Allora, allora, qual è la regia e qual è il punto che va sottolineato? Sì. Occorrono delle regole nuove per quello che riguarda la securitizzazione, la contabilizzazione di questi crediti che vengono ceduti a terzi o italiani o esteri, grandi operatori potenzialmente interessati, che, e non solo potenzialmente, ci sono, come lei saprà meglio di me, una serie di grandi investitori istituzionali che vorrebbero, certo, fare questa operazione. Però le dice, poi ogni caso, diciamo, è un po' come gli amori infelici di Tolstoi, ogni caso è infelice a modo suo. Moria Longo, una battuta rapidissima perché sono in chiusura di programma. Sì, vuol dire, è vero che ci sono tanti operatori che vogliono comprare, è anche vero che per comprare comprano al prezzo adeguato. Il prezzo adeguato implica che le banche facciano svalutazioni. Di vendite ce ne sono state, Unicredit ne ha fatta una recentemente, però per farlo lo fanno su portafogli molto spesso piccoli, già svalutati, quindi appetibili per un investitore che investe e quindi spera di guadagnare di più. A livello sistemico le svalutazioni, i dati sono inequivocabili, anche se bisogna distinguere tra incagli e sofferenze, ma i dati sono inequivocabili. Sulle sofferenze le svalutazioni ci sono state maggiormente, ma soprattutto sugli incagli o comunque in generale sui deteriorati le svalutazioni sono molto più basse rispetto a quelle a cui il mercato le comprerebbe questi crediti. Allora io dico due cose, poi vi riavrò ospiti perché siamo all'inizio, è stato l'Unicredit a citare per prima l'ipotesi di trasferire tutti questi crediti difficili, problematici, a diversi livelli di problematicità, ha ragione Masera, in una banca bad o brutta, come vogliamo chiamarla. Due cose però sono i paletti che mettiamo. La prima, non un euro di denaro pubblico, nel senso che se no sono soggetti privati, abbiate pazienza. La seconda, se veramente poi serve a liberare i crediti nuovi alle imprese, perché non vorrei che si finisse solo a liberare, diciamo, di zavorra le banche e poi magari continuano a fare investimenti molto prudenti e non, diciamo, alimentare l'economia sana e reale. Questi sono gli unici due paletti che io vedo. Ringrazio Rainer Masera e Moria Longo. Vi lascio alla nostra programmazione. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Un auguro di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.